Eccoci qua in diretta. E intanto ti presento, sei un compagno di Bologna, attivo in varie situazioni, magari mo ci racconti anche bene che cosa succede negli ultimi giorni in questa città. Infatti uno dei motivi per cui abbiamo fatto questo collegamento telefonico era appunto che, essendoci oggi qui a Roma un presidio sotto Regina Coeli per le persone arrestate dopo il 15 ottobre, volevamo così contattare anche varie città per farci raccontare un po' com'è queste giornate, diciamo, successive al 15 ottobre, che cosa comunque continua a muoversi in giro per l'Italia e anche così a significare che la data, insomma, del 15 ottobre, al di là delle questioni giornalistiche, per noi rappresenta un pezzetto in un mosaico complessivo, insomma, che comunque continua a muoversi. Certo, noi ovviamente abbiamo fin da subito espresso solidarietà a tutti gli arrestati e le arrestate del 15, abbiamo comunque rivendicato le contraddizioni di quella manifestazione, ci siamo posti ovviamente tutta una serie di questioni su come andare avanti, su come riappropriarci comunque di una capacità di traduzione collettiva, politica, anche di quella rabbia, di quella diciamo che ha trovato le forme che ha trovato nel 15, che ovviamente è molto complicato, e abbiamo cercato soprattutto, credo, di non avvitarci in una sterile discussione già vista, insomma, almeno per chi come me, insomma, è già un po' vecchiotta, se vogliamo dire, nel post Genova, di evitare il giochino facile di etichettare o catalogare tra buoni e cattivi per dividere e disgregare il movimento, e cercare invece di porsi la questione di perché alla fine le strutture, anche le strutture di movimento sanno, riescono o non riescono, laddove la soggettività eccede le strutture, ad esprimere, a incanalare o comunque a trovare delle forme produttive di conflitto e di che ci portino ovviamente a affermare gli obiettivi, che sono gli obiettivi di un movimento globale che ovviamente continua. Diciamo che io ho fatto parte, insomma, di questo percorso, sono arrivato a Roma con il percorso di Time Out, quindi con BAT, VIVAG, appunto Antagonismo Gay, Laboratorio su Mascheramenti, che sono le mie realtà, e studenti medi dell'Utopia, ma ci eravamo da subito posti l'obiettivo soprattutto di aprire un processo più ampio, e cosa che abbiamo fatto, cercato di fare nel post 15, quindi riunendoci in molte assemblee o settimanali, in sala borsa, in spazi pubblici, in spazi centrali della città, aggregando moltissime individualità sparse, tantissime persone che erano state a Genova, a Roma, ma lapsus freudiano, non avevano capito molto, anche persone che erano state a Genova, insomma, ecco, perché non è, voglio dire, non è un movimento generazionale, cioè non è che è una questione di studenti o di giovani o di, cioè la precarietà, la precarizzazione, l'impoverimento che il debito e la gestione del debito sta portando, ovviamente ricade su tutti e tutte di qualsiasi generazione, quindi è anche importante essere transgenerazionali. Da lì, insomma, per farla breve, adesso poi posso articolare, abbiamo poi pensato alle iniziative, sono emerse le prime istanze, per noi l'istanza principale era di aprire uno spazio pubblico appunto che fosse un luogo di precipitazione di tutte queste mobilitazioni, un luogo di riattivazione aperto sulla città per l'11 e dall'11 in poi, e quindi poi siamo stati nella dinamica di Occupied Wall Street, eccetera, che ha portato ieri, ci ha portato appunto a occupare un cinema centralissimo a 10 metri dalla Piazza Maggiore, l'Arcobaleno. Direi che per Bologna il bilancio è positivo, nel senso che se l'obiettivo era occupare tutto, siamo usciti con un bilancio di occupazioni appunto dal mercato di mezzo al cinema Arcobaleno, all'università, al liceo Sabin, in cui tutte le soggettività hanno espresso, diciamo, la loro capacità di riappropriazione di spazi e di pratiche collettive, quindi sicuramente c'è una dinamica molto positiva che adesso ovviamente si rilancia verso le altre, sia nella lotta quotidiana, che perché poi già da oggi sono partiti volantinaggi, sono partiti nuovi appunto cortei di informazione, eccetera, sia verso il 17, verso i nuovi appuntamenti globali. Ecco. Senti, così anche per entrare insomma un po' più specificamente su questioni magari che riguardano un po' anche la giornata romana di oggi, secondo te, al di là diciamo della questione diciamo repressiva spicciola con la quale chiaramente ci si ritrova a fare i conti subitaneamente dopo manifestazioni insomma importanti come sono state quelle del 15 ottobre, sia prima che adesso, cioè sia nel pre diciamo caduta del governo, sia in questo che si sta preparando adesso, l'idea generale diciamo su tutto l'arco costituzionale è che di fronte insomma lo scenario che ci abbiamo davanti molto probabilmente è un governo della Troica come sta avvenendo in Grecia, e questi segnali c'erano già precedentemente, cioè sia prima che dopo con Berlusconi o meno, l'idea è che in qualche modo le forme di critica allo stato di cose presenti non sono tollerate, no, in un paese come l'Italia, o meglio non possono essere tollerate. Come ci arriva in qualche modo Bologna a pensarci a quali saranno le prossime mobilitazioni anche di fronte diciamo a un panorama che si preannuncia insomma abbastanza complicato sotto questo punto di vista? Sì, sicuramente è complicato, nel senso che sappiamo benissimo che mai come oggi il movimento è solo, è irrappresentabile, forse nessuno neanche cercherà di farlo, di rappresentarlo, nel senso che c'è la quasi unanimità delle forze politiche rispetto ai dettami della Banca Centrale, del Fondo Monetario e rispetto a una prospettiva di governo tecnico. Quindi il fatto che assistiamo a dei comunicati congiunti tra Confindustria e sindacati che dicono sì al governo, cioè siamo veramente in una dimensione in cui tutta la dimensione politica, sindacale e rappresentativa è completamente assorbita dal meccanismo per cui il meccanismo della speculazione, perché è il meccanismo speculativo che fa sì che gli stessi soggetti internazionali che innescano la crisi dopo diciamo la scaricano sugli stati sovrani, inducendoli a ridurre il debito per a riacquisire credibilità, eccetera, eccetera, in una spirale senza fine che alimenta solo la speculazione finanziaria. Quindi ovviamente da una parte c'è una consapevolezza di solitudine e di irrappresentabilità, perché appunto è uno scacco diciamo di tutte le forze politiche tradizionali. Dall'altra appunto c'è la consapevolezza che questo movimento è necessario, nel senso che ovviamente le conseguenze della crisi producono anche una soggettivazione e un fatto che le persone ovviamente sentono questa, da una parte la ricaduta nelle proprie vite di tutto questo e dall'altra anche la necessità di darsi delle risposte, di produrre delle risposte collettive. Quindi direi che prima di cadere nel ciclo diciamo di lotta alla repressione è necessario soprattutto arrivare a tutte le persone che al di fuori dei centri sociali, al di fuori delle strutture, al di fuori di Roma, anche nella delusione rispetto a tutte le strutture politiche esistenti, hanno comunque voglia di fare qualche cosa per affrontare nel quotidiano proprio il loro impoverimento, la loro precarietà, l'abbassamento della qualità della vita, sapendo di non trovare delle risposte preconfezionate, ma che bisogna costruirle collettivamente. Noi abbiamo giocato tutto su questa dimensione molto comunicativa, abbiamo sfilato con Santa Insolvenza, l'abbiamo fatta apparire in carne ed ossa nella figura di un attivista transgender che col frustino diciamo frustava finti bancari, banchieri, eccetera eccetera. Cioè, comunque abbiamo giocato moltissimo su una capacità comunicativa, in modo che si fosse sempre chiaro che anche nella radicalità, nella capacità comunque di riappropriazione, nella radicalità delle azioni, fosse soprattutto importante far capire e comunicare all'esterno quello che questo movimento nella sua pluralità chiede, esige, di non pagare il debito, di avere reddito, di riappropriarsi di una democrazia diretta, di costruire degli spazi di autoaiuto, anche di auto-organizzazione, insomma tutta una serie di parole d'ordine che sono le parole d'ordine di tutto il movimento globale e che quindi vanno fatte vivere però appunto nella capacità creativa collettiva.